passano invece lo spinotto di dietro del... perché se ce l'ho in mano lo spinotto di dietro, lo spinotto di dietro che porta il coso tutta la radio. Sì, bene, ma è normale, se tu lo tieni con la mano non potrà mai fischiare perché tu fai da scaricatore di massa, capito? È una cosa normalissima, è una cosa normalissima quella, non c'entra niente. Devi farti lo spazio per utilizzare la radio con davanti il microfono, quindi frontalmente, staccato sia dalla T250 che dall'alimentatore, ok? Perché in molti casi, già successi, l'alimentatore può essere un problema e quindi va messo in terra, però la T250, siccome il cavo che ho anch'io è corto, sono fatti apposta quei cavi, no, non lo puoi mai mettere in terra, va bene, allora fatti una base, fatti a che cosa dove puoi lavorare bene, perché il microfono era il tuo qua, giusto? Era il tuo, la radio era la tua, l'alimentatore era il tuo, non fischiava assolutamente niente. Quindi hai un problema lì di fondo, che è quello che è successo a Sandro stamattina, che aveva un innesco causato proprio dal microfono lateralmente sulla radio. Sempre davanti i microfoni, vedi, sempre davanti. No, davanti non lo posso mettere, è stretto il piano, il pezzo. Cazzo di aro, dove vai a Mascelle, dove vai a Monte dei Biasi? Ma è come lo sposto, è come lo sposto, come è lo spinotto? Aspetta, Benì, c'hai un pezzo di legno o da mettere tra il microfono e l'apparato? Sto dicendo bene, Ocra? Un pezzo di legno tra la radio e il microfono, qualcosa che isoli, e non attaccare mai la T250 alla radio, ok? Mai, lasciare sempre un dito, due dita di distanza. Guarda, tanto ce l'ho, il microfono girato a sinistra non sta più fischiando, come lo giro? No, è un palmo, la radio è proprio separata da tutto quanto. Ma tu stai dicendo il connettore è quello base o il connettore microfonico? Sta a sinistra e non lo sta facendo. Mi sa che c'è il cavo qualche cosa rotto. Aspetta un attimo. Benito, il Make Again come ce l'hai, a manetta? Si muove appena appena, uno e un trattino. Però muovi il cavo mentre stai parlando, muovi il cavo, non la prova stiamo facendo, muovi il cavo, sia del connettore alla radio e quello che ci hai attaccato al microfono, prova. Eia, L. Quello della radio, l'ho sentito adesso, ve l'ha fatto. Quello della radio stai toccando? Quello che ha attaccato la radio? Eia, adesso sto toccando quello che ha attaccato alla radio, adesso non l'ha fatto, poco fa l'ha fatto però. L'ho sentito, poco fa l'ha fatto. Lo sto toccando. Guarda, adesso appoggiato alla ghiera normale, come si dice, appoggiato tra i due cosi che stringono. Accettiamolo bene. Una domanda, non ti ho sentito la risposta. La T250 è in automatico col tunnel inserito? Sì, claro. C'ha sia uno che l'altro inserito ed è in automatico lui. Ma l'ho messo a... Cosa fa? L'ho messo a vedere le stazionarie e mi segna 1.1. Qua no, non ce lo posso fare. Dove ce l'hai adesso? questo ce l'ho laterale, però il tasto ce l'ho avanti al baracchino, capito? Un po' più avanti. Quindi vedi bene che il piantone dell'MG60 ti fa rientro sulla radio, perché è chiaramente è alimentato. Quindi lì in quel pezzettino c'è qualcosa da sistemare. Ok, da sistemare. Puoi provare anche con uno straccio e con un panno. Qualcosa del genere. Se tu metti un panno, per dire, sopra la T250 e ci metti il microfono sopra, non lo dovrebbero fare. No, ma la T250 ce l'ho tutta un'altra parte, capi? Tutto sulla destra, diciamo, del piano. Sta andando bene adesso, perfetto. Prima c'avevo tra la T250 e il baracchino, adesso ho spostato leggermente il baracchino verso la T250 e il microfono l'ho messo tutto a sinistra in modo che è lontano né dalla radio e da tutto quanto. Attendi come ti brucia la radio forte, bella, chiara, 9,5 di segnale con picchi positivi. È tutto questione di rientro di RF. Il microfono devo lavorare sempre distanti dalle radio, dagli alimentatori, dagli accordatori automatici, sempre. Sandro, bene, lo senti adesso? Sì. Adesso ha cambiato dal giorno alla notte, Oberi. Sì, tranquillamente. E vabbè, dai. Adesso per dire, stamattina me lo stavo facendo a me, per dire, è andato... andato a fare tutto quanto e sono riuscito a capire che cos'è. Va bene, dai, l'importante è che sia risolto tutto alla bella meglio. Va bene. Ma chi c'era anche Falchetto? È andato a prendersi le sigarette. Già torna subito, tanto è vicino lì a casa sua. Il microfono e lo sposto più in là, guarda, lui innesca, lo metto più lontano lì dalla radio, più lontano dalla radio, capito? C'è strano quel posto, cazzo, io non so quindi mirare il radio, ma hai detto, è molto strano, comunque c'hai dentro di RF lì in quel posto di combattimento, vedi? Se hai adesso trovato il punto dove mettere l'MC60, pone l'attac, falli, tracciano in terra lo disegno dell'MC60, lo guardato, vai, no, anche un rettangolo quello, e glielo metti dentro. Perfetto. Vedi, ma sta terra sull'apparato ne hai? L'ho fatto adesso, gli ho fatto il cavo, gliel'ho messo dietro dove va attaccato il suo cavo, ho tolto il filo, l'ho collegato. Siccome io sono all'interno di una casa in lamiera, che è anche incementata in terra, quindi c'è un po' di massa, e l'ho attaccata a quello. No, correggimi Claudio. Allora, un bel paletto. Dove è andato? Terra e il bel cavo dietro a lui. E per il momento io adesso l'ho fatto così, e infatti ha diminuito l'innesco. Niente sia dovuto anche da quello, ma così qua. Sì, il piano di massa ci vuole, è rientrato Falchetto. Il piano di massa ci vuole. Quindi l'unica cosa in pianta stabile è mettere un picchetto fuori, di quelli non molto grandi, di cui due colpi di massa e lo farei... lo punti a terra, non al cemento, a terra, ok? E ti passi, ti prendi 10 metri, 15 metri, quello che di giallo verde da 2 mm e mezzo quadri, le fai l'occhiello, glielo attacchi dietro al 140 e poi l'altro occhiello al dado che c'è, al bullone che c'è del picchetto. E tu avrai a vedere che sei sicuro tu e sicura la radio e non hai problemi. Né di elettrostatiche, né di rientri di RF, niente. Perché scarica a terra, non al cemento, a terra. Vai Anto. E poi se ti lascio un tratto. E così, devi seguire i consigli, vedi, e poi vedrai che tutto va positivo. K. È importante, invece, è vero, è vero. Hai gagnato via, ciao Lu. E altro, cioè domani lo faccio, va per buio, cosa non voglio fare là. Domani, sempre alla luce. Ciao, Luca. Buonasera a Toro, c'è portante qua, là, eh. No, roba. Allora, a monte? Sì, mi può, beh. Noi non ce ne accorgiamo, se ce lo mettono quando parliamo, no, non ce ne accorgiamo. E se non è al monte, te lo abbassa. Vabbè, basta dirlo. Se c'è portante, evidentemente qualcuno non va bene, colochiamo il cielo, spegniamoci e andiamo. A te non ti passa perché la radio è un bel forte. Qua gli altri, 9.40 e più qua, eh. Scherzo. Addirittura. Oh, vabbè. Passa un basso a fare il mezzo. Vabbè, va bene, Luca. Ben ascoltato, ben entrato. Non se la può tenuta, Luca. Non se la può tenuta, dai. Io, si prosegue il nostro discorso. Non se la può tenuta, è importante. Claudio. Poi a venire, poi fate un giro di conti, tu, guarda, il segnale 9.40 che può essere, solo tu da lì lo puoi sapere, qua i segnali del monte sono molto più bassi, quindi non me ne posso accorgere da che zona proviene, dimmi bene. Allora, l'altro colore di poco fa è BV2001M, MK3. Già lo conosco con l'ignale, se non chiamo per proviere. Sì, però il BV2001 ha un ingresso di 10 watt, bene. Tu non puoi dare 10 watt a quella radio e far sì che abbia un'uscita di 200-250 senza avere l'accordatore tra l'antenna e il lineare, bene, perché ti fa rientro di RF, ci vuole l'accordatore. Non pretendere di usare la D250 con lineare perché lo crepi, eh. Assolutamente negativo, ci vuole un accordatore manuale dove va messo tra l'antenna e l'amplificatore, allora possiamo discutere, ma senza accordatore non lo provare. No, io ce l'ho anche quell'altro da 1000, l'accordatore manuale, il mio primo accordatore. No, l'altro, quello di prima è il B507. Ah, il B507 lo sta alimentando col PS430. Con? Col 430 lo sta alimentando, il tuo alimentatore si chiama PS430. Ok, il tuo alimentatore si chiama PS430. No, questi sono tutti alimentati a conto suo. Ah, 220 sono. Eia, uno e uno è un altro, capito? Però l'accordatore dove l'hai messo tu? Il cavo di discesa dell'antenna direttamente sull'accordatore? No, lo stavo usando poco fa l'accordatore. Un attimo. Vai. Un attimo che c'ho una portante qui, adesso non so, magari non sta uscendo. Chi è che vuole entrare sul 10? Ciao Sandro, mi sentite a tutti? Ah, sei tu Gianluca. Ok, ben sentito, buonasera. Oh Claudio, sono l'albero di Natale qua io. Ciao Gianluca, come l'albero di Natale? Quando schiaccio la portante a modulazione sul display c'è il colore arancione, il colore blu e il colore nero. Impostato niente, ci sono le impostazioni, ma la legge schiacciato escono fuori. Un vantaggio che ci sono anche i cellari. Fammi un attimo, correti per me che mi hanno chiamato, ci sentiamo domani, ciao ciao. Vieni, non toccare niente, guarda, non toccare niente, lascia stare tutto così e non fare nessuna regolazione, neanche dei watt. Eh sì, 9 più 10 adesso che sta scaldando, 9 più 10. Sì, no, l'unica cosa che devo fare domani è tutta quella massa a terra e boh. Ecco, il microfono lasciatelo in quella posizione e porti la massa dalla radio al bicchetto fuori, basta, e poi domani ci sentiamo. Se se ci sono problemi ti telefono e riporti qua il microfono. Non mi interessa la radio, perché tanto la radio non c'è niente. Ok, positivo, dai, facciamo così. Vorrei da parte mia saluto in circolare a tutta la ruota. Ciao ciao. Ciao Benicio, ciao. Ok. Ciao Benicio, alle prossime. Oh, se la guina già arrivaci. Del resto sto uscendo bene, grazie. Tanto c'è 9, quasi 20, radio 5, perfetto. Chiedi a Gianluca a vedere. Ciao Benito, che stanno via. Aspetta un secondo, sto facendo dentro questa radietta. Grazie, tu sei. Ecco. Stavo dicendo, sto uscendo bene. Sento bene. Come sto arrivando io da te, Claudio? C'ho il palmare, ciò? Sì, c'hai il palmare, la radio si sente tesa nel microfono normale, però hai picchi negativi. Mi torna leggermente indietro. Forse c'è la potenza tutta manetta. Passiamo poco. Andiamo così. Sì, me lo dà anche questo qua, ma deve essere una cosa di questa radio. Con Sandro, penso, una volta stavo provando anche qua con quell'altra. Non ho capito perché da picchi negativi. Ma quella che già, quella che ho visto io? No, quella che tu è già salita. Quella? È già su. Il 2? Sì, esatto, però qua ci voglio attaccare il microfono, il turner o l'M300? No, tu se attacchi il turner mandi anche quella lì sopra. Aspetta un attimino. Gianlu, il cavo di massa a terra, se lo sei fatto? Sì, ma l'ha già attaccato io, che si dubbio di su giù. Quando arriva quell'altra faccio tutto bene. C'è la matassa? No. Te l'ho detto, cosa devi realizzarti tu? Da giù un bel paletto e ti porti sulla matassa a terra. Ciao Gianluca. Ciao Alessio. Niente, dai, io posso insegnare invece come Claudio. Insegnare tra l'8 e il 9, però sempre con picchi negativi. Non affrontare con la radio, se mi un consiglio. Cuprenia di un MC60, dove è Radio Claudio, non è attaccare il tonnello più 3, che quella radio deve funzionare con l'alimentazione diretta al microfono, non alimentazione a batteria, Gianlu. Dammi retta, attaccati sul B, guarda che ce n'era uno anche l'altro giorno di MC60 a 80 euro più la spedizione. E sii tranquillo, attacchi un connettore e sii andendi, perché il tonnello più 3 può fare danno e stai attento. Io sono di Mendici, infatti, perché per quello c'è anche lo standard, quello con l'equalizzatore e il compressore. Ti ricordi quelli da tavolo grandi? Sono lì, mi ha già fatto male l'attacco dagli si di sombra, l'ha già mandato e me l'ha fatto Balidu a di Damanna, però non l'ho mai provato perché quelli sono già forse da soli. Infatti Gianlu, io ti consiglio di comprarti un MC60 con quella radio, dammi un'oretta. Oppure in alternativa ti compri un Adonis di quelli che abbiamo preso noi, io e Sandro, che costano poco, 60 euro, te lo fai mandare, tanto c'è due carretti, c'ha tre ingressi, c'è Ico McKenwood, e usi quello lì, che è alimentato dalla radio. Capito? Ma non un Tane più 3, cazzo, è una cosa troppo fatta male, un Tane più 3 su una radio del genere, Gianlu. No, perlomeno io non mi fiderei, basta una minima stronzata nel connettore d'ingresso, se tu tocchi leggermente, il connettore di quella radio degli 8 volts bruci la radio, Gianlu, bruci la radio, e ti dico un'altra cosa, essendo digitale, crepi quanto c'è. Non è successo così. Comunque adesso non lo uso questo qua, ma ce l'avevo quello là, era grigio con il microfono cromato, era questo della mia isola, l'ha usato la mia pasta anche da me. Però i microfoni vogliono i suoi, Gianlu. Io posso mi rattagli Guarda, io ho quello di Sandro, 908, lo uso esclusivamente con la sua radio. Non ho mai provato neanche a cambiare, e c'ha l'ingresso a Kenwood, non ho mai provato a cambiarlo perché io ho gli MC60 con i Kenwood e uso gli MC60. Con l'Icom uso l'SM20, già l'hai visto, con lo Iaesu ci vuole il suo microfono. Ci vuole il suo microfono. Io tanto più tre, sono dei bellissimi microfoni, io ce li ho, ne ho due, però li uso con i baracchini. Attaccare quei microfoni lì alla radio che stiamo usando noi non è una cosa che a me mi piace. No, dimmi che mi allontano un secondo, riprendi Sandro. Ok, va bene. No, ma secondo me lì Gianluca si deve mettere una signora antenna, un piano di massa, e lui è a dama. E vabbè, va. Ti tengo la di Natale. No, adesso poi provo a guardarmi il manuale a vedere. Va bene, mi accetto anche io un secondo, che devo spiegare qualcosa, vai Cla. D'accordo, siamo qua per tutte e due, no, non c'è problema, avanti Antonio. Positivo. Vabbè, non fare le cose. Un attimo Cla. Vai. Anto, adesso voglio vedere domani mattina chi si sveglia prima, eh? Perché? Oh, claro, Masano per Magnara, con Antonio, che accendo, però Antonio mi frega subito, mi frega prima. Vabbè, dai, mi accendo, riprendo dopo. Va bene, lasciamo fare. Pronto, i vecchietti della città di Sassari ci sono stasera, i vecchietti. Oh, Domenico. Oh, Falchetto. Buonasera, ben sentito, ma in compagnia di Claudio, di Sandro, che ha parlato un attimino di Stan Mike, e di Gianluca, che lo stesso ha parlato un attimino di Stan Mike. Avanti per Claudio, vai, avanti per lui, dai, è uguale. Ciao Domenico, buongiorno, con la speranza che tu mi ascolti. Visto che non mi ascolto. Dove? Posso al telefono? Io mi ha squillato il telefono, Spero che tu abbi l'auricolare quando stai guidando, se no ti faccio le foto. Guarda quello che ho io a te proprio, non ti riguarda, non mi devi niente, non ti devo niente. Ma la prendi così, va bene. Allora sappi che mi metto all'ingresso della galleria, ma non ti faccio entrare. Va bene, mi devi consegnare le chiavi. Non faccio un muro e ci metto armato. Capito, in entrata, in uscita lascio perdere. Ah, io faccio la scala di gioco. Va bene, anche lì. Metto tanto il traverso. Poi arrivo lì a quel grattacielo che c'è alto, metto un canale e tiro a quelle antenne che ci sono. Ah, le antenne sì, ma avevo il grattacielo. Io è antisismico questo, è pure il tuscio. Tira che ti tira che è il grattacielo che si avvicina, come dice quello là della fontana del Rosetto. Tira che ti tira si allunga, vero tu? Ma come ti siete venuti a trovare? Ma state lavorando dentro o che cosa? Ti ho pensato stamattina, ho detto, Antonio entrerà a casa, Antonio entrerà, visto che era stamattina piovendo. No, negativo, io oggi, ieri non sono entrato a lavorare, però stavo da quelle olive e compagnia bella. Però stamattina c'erano fatto entrare e sai dove stavo lavorando? Al manicomio. Ah, in mezzo alle marce. In mezzo alle marce proprio. Cazzo, la navigatura, ma lì non sei stato anche detenuto e cose, ma pure il capo mi ha ammanettato, cazzo, a fare una visita lì al manicomio. Cazzo allucinante, cazzo, proprio pure il capo. Chi si sarebbe pericoloso? Pronto? Via, Michele, ci vedi la parte di fuori, tu stavi bene lì dentro. Ciao Guido, ciao Carluccio. Io ero proprio vicino alla chiesa, proprio dentro la chiesa, lì stavo troppo bene. Ma ti ha messo la mano anche in testa il prete. No, non c'era il prete. No, lo stiamo ristrutturando e niente, dai, io stavo bene, ma un tempo, mannaggia. E io ho visto stanotte che ha buttato un po' d'acqua là, un po' di dagari. Riprendi qua. Ehi, via, via. L'acqua sta già iniziando a rompere le palle per conto mio. Non lo so. Chi ci viene dato tutto le monte stazionali, no? Fortuna su queste cose. parte di due. Ben soltanto per entrato. E dice, bandito, lavorando, scostolando olive a tutto andare, cosa vuoi fare? In compagnia di Domenico, te lo rilascio avanti Domenico per dare i capricotti. Attenzione, chi c'è sul 10? Allora, Claudio. Avanti. Sì, chi è? I cubi? Sì, che ti conto, chi sei? Questa parte Mauro. Ciao Mauro, Gianluca di Porto Torres. Ciao Luca, dove i cubi come radio? La radio va bene, la radio potrebbe essere anche 4, un segnale un po' bassino, 1-3 oscillante. Sì, vabbè, la radio perché questa è piccolina, la 48, quindi questo esce più basso. Ma c'è problemi anche l'antenna, ecco, quello ti... non fare tanto riferimento al cioè la segnale che ti sto dando, comunque. Mi interessava vedere il radio.

preoccupa, ma zitta, zitta. Solo fatto K del Roger. Tu da porta provato vai? A vende? Guarda, 1, 2, 3 prova, cosa dici? Cazzo, quanto compa. E allora bisogna rubare 10 truffoli, te lo so dire. Ma io, prima che ho tutti, non questa, dai, prima che ho tutti, dai. Vai, prova a procurarmi una rubicina di quelle capsule. Cazzo, quanto compa. Ma una cosa non devo credere. Se la faccio al 1%, un siluro di un per me, qualcosa. Piccolo ma sincero so, io sono qua a quanto so, figurati la verificazione. Io sono a 5, buon buon. A 5, se è alta o alta, vedi, qua sto salendo, sto salendo, sto salendo, sto salendo, adesso tutto a palla. Ah, come questo preciso è, uguale con il piccolo. Non c'è mai arrivato, ma con quelle metà 100. questo è tutto una terra. Anche perché cambiano i modulatori. Nel 39 c'è un modulatore piccolo, qui c'è un modulatore grande, perché non sapevo il finale. Sì, tipo, ma non guardo via, non costa niente. Non costa niente. Non costa niente, la fa male, non mi una stasera, non so se dice troppo, mi ha aggiornato, mi ha doppiato, la fai come ho fatto io. E vediamo se la vende, se la vediamo venda. Vabbè, ce la proviamo, dai. Però ora devo abbassare un po', è troppo alta, è troppo squillato la radio. Sono... a 2 so. A 5, è giusto, giusto. Adesso a 3, va bene? Tu ti senti, Gianni? Non ti sarò quasi più, ma dove sta dove lavori tu, mi hai detto? Sì, ho fatto Forest. Ma la concorrenza di cosa, Maroni? Dove a fianco? Ah sì, sono lavoro. Via Sassari? A Forrottone, se no a Sassari. Ah, è Granai? Sì, un po' da tutte le parti, sono un fisso. Sì, che tu conosci allora, sta giù qui, culo Borgoncino, cosa fai lì? Cosa fai le consegne? Oh, basta, sono così. Quando ti fermo, ya, quando ti fermo, ti fermo. Andrà verso. Ciao, ragazzi, riferi, ma non lo può fare. Figlia, ok. No, allora, l'abbasso. Io adesso lo metto, aspetta un attimo, va. Guarda, lui dice, va bene, sei meno squillante. Va bene, va. Vabbè, ma cos'è che stai usando il coso? Quello grande mio? No, non l'ho acceso tutta la macchina, adesso stacco questa e attacco il tuo, vediamo cosa, se va bene il microfono, se no, boh. Così lo provo, un attimino, eh? Sei in casa? Perché io lo stavo usando con questo microfono, ma non c'aveva quella capsula. Speriamo, guarda, che siamo precisi. Allora, la provo, vedi se funziona. 2 minuti. Attenzione, Lucariello, se mi occupi, cambio. Sì, ti ascolto, Mauro, proprio è chiaro. Adesso meglio va, troppo così. Prova. 1, 2, 3, prova. Stavo siete troppo rimbombati con le radio. È forte, è un bel forte. E beh, ho messo quella capsula che mi ha dato lui, l'ho tolto l'altra. È troppo rimbombante. Guarda adesso. Ah, solleva. Guarda adesso. Solleva. Guarda. Vai, ancora. Guarda. Solleva. Guarda. Vai, passaggio adesso. 1, 2, 3. È un po' potente, è un po' potente. Deve essere quello che picca molto di più rispetto all'altro. Ma secondi, le cassette l'abbiamo fatta, non li puffa nel computer. Lontanza va bene qua, Mauro, lontanza va bene. Lontanza va bene, e vabbè, ci parlo da lontano, vediamo se va meglio. Ma così va bene, dai. Quando non c'è una bomba, è una bomba in esplosione. Addirittura. Sì, no. Adesso vediamo col mio cosa esce fuori, che lo sta provando a Torello. Ma gaffa, che microfono c'hai? MP più 4. Io c'ho più 5 a casa. Io questo qua me l'hanno venduto, mi sto usando questo, ho visto che va bene con l'altro mio che c'ho, adesso questo è la 48. Sì, va benissimo, ma qua l'ho modificato. Tipo l'altro. Pesante la mattina quando esco a lavorare, me lo sto mettendo. Ah, ti sei piazzato l'altra e la sono vada pesante? No, ma è magnifica con quel trabacco, va più che bene. Ehi, va bene, no. Adesso ti sei fermato. Non accendo, no? Mauro, dimmi. Che tu lo sto usando, guarda un po'. Oh, picchi negativi non ne dai questa cosa. l'orpisco sale da 7 a 8, strano. Ti ha detto che secondo come ascolti gli altri lo smettere torna indietro, al contrario, invece di salire. Ah, quello non ho fatto. Sì, sì, è vero, quello non ho fatto. Adesso. Dopo dell'altro, ma come vedo il conto torna indietro anche quando stai modulando, autore? Ho capito, dimmi. Stavo dicendo che quando moduli torna indietro anche lo smitter lo stesso, sia quando stai modulando che quando stai ricevendo. Ora, sì, c'è ragione. Da 7 scende a 6, e ricezione è la stessa cosa. Ora. Una cosa ben strana, no, non avete che vedere come avete smitter qua però. C'è la risposta del sintomo dello smitter, devo controllare. Ce l'ho guardato la mia tira comunque. E vabbè, vedi rottura, non c'è problema. Così almeno se riesci a sistemare anche l'altro pezzettino che ti ho dato, siamo andava. Ok, allora, voglio vedere lo smid HI, cosa per voi. Vabbè. Ah, questa è la potenza questa, è 3, 4, 5, 6. No, come va? Io stavo guardando qua, l'osmetro dovrebbe intorno ai 4-5 watt, non di più, ma lo lascio perché dopo si usa quell'affare là, mi va bene così, non mi interessa il cavo. Ho capito, già va bene. Sto usando, cioè, si attacca il 3009, preciso di tipo, se si attacca il 25 non va bene, quello di Benito, perché c'è libri si attacchi. Ehi, che macchina stai usando tu adesso? L'LMS200 di Mauro. Ah, ecco, ma tu lo stai usando? Sarà 48 mio, capito? Ah, ecco perché esce male. No, è forte, non viaggi, è troppo compresa come radio. E vabbè, io adesso l'ho attaccato loro perché me lo dovrebbe controllare. Quindi mi attacco questo a casa. Così non rimango senza. Come ce l'hai messo nel centro? Ehi, fammi controllare lo smitter, che spesso e volentieri guardo per dare i controlli e sale il cioè, quando parlo torno indietro, e quando ricevo come parlate torno indietro lo smitter lo stesso. Ah, ecco. Qua lo parli, sembra che c'è un, come si chiama, anche ricezione lo fa. Tipo, ti posso dire, c'hai i picchi d'audio di rami allo smitter. Se invece uno non parla, lo smitter rimane fermo, sia in trasmissione che in ricezione. Un attimo l'impianto che vado a caricare e niente, ci sentiamo subito, dai. D'accordo. Andare a meta. Luca. Via. Non so se quello dell'FM avesse fatto lo stesso scherzo questa cosa. Vai. Perché se hai in FM è stabile. Non si muove lo smitter per niente, se non vedi fisso. Caba raba, se ci vuoi mutare la protezione con questo microfono. Con il FDC, pucci. Io ho fatto la telefonata, arrivo subito. D'accordo, avanti che c'era nel canale che è rimasto in bianco. Tutti buon fisso. Fa parte del gioco. blu, blu più faccia di duro. E là ti date le orecchie al buco. No, me l'ho mai tenuta. E rimango sempre in silenzio. Capito? Non me l'ho tenuta. Allora, giù potente, vedi? Poi alla fine, la prossima volta che entra, ci sono io, mi fa vedo giù, bravo. Ok. Dimmi Gianluca. Ascoltami, quel microfono non si chiama MC60, era un altro, quello che avevo io. Era della Iaeso, può essere MD1? MD1B8 oppure MD1C8. No, MD1 è quello là, il primo eletto. Chi se l'ha giocato va a far culo a me. Se non ricordo che l'abbia avuto per Renoga. Vabbè, ma stai bilanciando un microfono Iaeso, Gianluca, con un apparato Kenwood, potrebbe anche andare il bilanciamento, bisogna vedere come si comporta in modulazione. Ma prenditi un 60, cazzo, c'hai Kenwood, metti Kenwood già lui. No, non c'ho Kenwood, te lo sto dicendo, io ho convinto che si chiamava MC60 il microfono che aveva, invece quando sono andato a vedere che era Kenwood, no, io ci voglio Iaeso. Ah, Iaeso, allora prendi l'MD100, non lo fanno più l'MD1B8. Prendi l'MD100, capito? Se no, parlane con Sandro. 300 euro ce l'hai. Che mi ricordo con MD1, però non può essere. MD100, eh. 300 euro ce l'hai domani. 300 euro ce l'hai domani. E l'ho provato anche la metà io. Dai Sandro, un amico, 200, vai. Gianluca, se lo vuoi ce l'ho, nuovo. Della Iaeso? Ce l'ha Claudio. È qua Gianluca, è dentro la scatola, l'ha portato per provare con la radio sua, ma non va bene. Con quella che c'è tu sì sicuramente. L'MD100 questo è, quello nuovo, l'ultimo nato della Iaeso. Ah, ma qua c'è il microfono tipo quello per campare o come te? Io ho anche l'MC60 e l'MD100, sono tutti così i microfoni, tutto nero, praticamente c'è l'innesto come l'MC60, solo che è della Iaeso. Allora, questo che c'avevo io, allora no, non mi ricordo allora com'è, e rimaneva grigio, col microfono cromato e grigio, sempre due tastini, portante normale, portante fissa, il solo, questo invece l'aveva sotto ed era tipo il microfono per cantare, poi invece aveva la testa rotonda, l'ultimo quelli per cantare, che no, che c'hanno la testa tonda, c'aveva, è lunga, ce l'aveva, ma che bugarotta. Ehi, hai chiuso da giudito, è questo qua, è quello di Sandro, l'MD100 si chiama, MD100, capito mi hai? Ho capito, adesso lo guarda bene, lo cerco su internet, non vedo di baracchinetti, vedo che mi so, cazzo, baravintisetti, lo Galaxy, lo Jackson. Quanto mi vuoi, guarda, io c'ho Lincoln, Jackson, Galaxy, Lafayette, Zodiac, ma non hai visto i baracchini che mi so, in del vero computer, già visto gli ultimi, no, visto? Sì, infatti me l'hai detto che era lì, sì. Sì, la giubisce, vai un po' di roba. Cibi. Ma un telecinetto piccoletto, serio, guarda. Guarda quanto costano poco, anche nuovo lì. C'era il Galaxy, di 200, 150 euro. No, ragazzi, non va. Dai. Con a 300 euro di compareggio, con 140, così va. Va bene, comunque guarda quel microfono, se ti va bene ti metti d'accordo con Sandro, se Sandro viene, se lo prende, e così te lo va, per me non c'è problema, l'ha portato qua per provare col 757, ma non va bene, capito? Non va bene, ci vuole una radio che ci abbia un bel processore come quello tuo. Ciao Claudio. Ciao Gian. Sandro, io... ok, sì, è quello precedente. No, cosa? Il GX2, quello lì è. Sì, ma è quello precedente, capito? Quello che c'ha Claudio è l'ultima serie. Quello che c'hai tu invece è la penultima serie. Che avevo. Va bene, guarda, quando capita lo proviamo, spada. Oh, Claudio, il 751 cos'è, sempre America oppure anche senza America? No, con le scuse per Gianni Capredue e Antonio Falchetto. Allora, il 751, la prima versione era IC751, poi hanno fatto la seconda versione, IC751A. E il 751 America? Ma tratta 27, cazzo Gianlu, mamma mia, prendi 240 per la 27, non sbagli, cazzo, sia questi svegli. No, siccome sto guardando qua, aggiunto proprio che lì si è dimenticato di pulire l'America, invece già c'è il 751, no? Questo è il 751, e boh. Ecco, quella è la prima versione, 751, poi hanno fatto 751A, come delle versioni del coso, come si chiama, della IAESO, non ho fatto 757, ma ho fatto 757GX2, capito? Agita Gianluca, vai Antonio Falchetto, Gianni Capri2, vai Antonio. Positiva, rilancio Capri2, sta mai, che avanti Capri2. Io mi sono allontanato poco fa, anche dalla stazione. La prossima volta vado in aria e porto la bomba atomica e la collego. E nella scatola penso che funzioni perfettamente ancora. E poi iniziamo a sparare potenza. Claudio mi ha capito benissimo. Buonasera Sandro, anche a te. Riprendi Claudio. La prossima volta non succede quello che è successo poco fa, capito? Io stavo cenando e c'avevo il volume basso. Perché se ci sono io, tu vedrai che non è la gente a fare casino. Soprattutto non indesiderata, capito? Perché io non vado a rompere balle a nessuno dei canali di sopravviventi. Esigo la stessa cosa, la stessa educazione. Tu solo la faccia di un guru per fare certe cose, scusami Gianni, ma io sono abituato a parlare così. Avanti Antonio, riprendi e fai girare. È positivo, infatti c'era un questione, stavo parlando con Gianni Capri2, tanto che è entrato qui, ma non capisco, ma cosa, cazzo, vanno a rompere le palle, cazzo, ma non c'è un questione, cazzo, non ho capito io, riprendi Gianni Capri2. Io me ne sono sceso, ho lasciato tutto, me ne sono sceso, mi sono apparecchiato, tra le mie fratello ero un po' di spinta e arrivo a 30 euro, ho mollato tutto per non stare, però Claudio ha detto quello che dovevo dire io, capito? Tanto io non ci sarei, non si permettono a chiamare che io non rispondo più con certa gente, basta quello che ha venuto, e quindi però stavo parlando, stavo chiamando anche a Domenico e poi l'ho perso, me ne sono scelto, chiamando un sacco di volte, non ho potuto rispondere, niente, poi c'era questo QSO, ho capito, e il canale era occupato perché avevamo io, tu, Antonio e altra, però non mi piace più il tanto, quando non sai io più il segno, ho spengo, me ne sono di nuovo giù, riprendi Sandro, una buona sera. Ok. Ciao Capri2, ben ascoltato, buonasera. Ok, non vi arrabbiate, non vi arrabbiate, l'unico sistema è evitare cambiare canale oppure cercare altre vie, tanto non serve a niente, non ne vale la pena, tutto lì. Ok. Gianluca, costa poco, qualche giorno lo proviamo, vedi un po' e te ne accorgi, guarda, se tutto va bene. Ok, riprendi Gianluca. Sì, a Sandro, soluzione anche l'amico che sento piccolo piccolo, Gianni, ho entrato un'altra persona? Buonasera Gianluca, qui è Gianni Capriu da questa parte, che ti super saluto dalla quel di Muro, scuppiata di Muro, smetti unico Romeo Oscar Sierra, un paesetto che conoscete perché diciamo che è quasi Sassari, siamo quasi a Sassari. Ok, niente Gianluca, ti ascolto ma non molto bene, mi riesci a raccogliere la modulazione, più che altro, a raccogliere la radio. Va bene Gianni, ti sento, tranquillo. Grazie Claudio, riprendi. Ok. Perfetto, d'accordo. No, Sandro, non sono d'accordo a quello che hai detto, non devo cambiare canale, ne sono fatto. Noi siamo qua e certe persone devono rimanere da altre parti. È troppo comodo quando si esce in macchina, spazzolare e entrare a fare casino nei canali degli altri. Con tutto rispetto sempre, per carità, il canale su di tutti, però si può avere quel briciolo almeno di non aggiungo altro, visto che ci sono persone con le quali non si condividono le stesse idee, perciò va bene così. Io ho rispettato e rispetterò sempre gli accordi e le cose che ho fatto con determinate persone. Non mi permetterò mai e poi mai, anche se non c'è un cane in radio e ho voglia di parlare, ascolto, ma non vado a sicuramente a parlare con gente che non vuole parlare con me. Quindi a buon territorio e poche parole, questo sia chiaro una volta per tutte, perché se c'ero io succedeva casino, fortunatamente non c'ero. Ok, avanti Sandro, riprendi. Ok. Lo so Claudio, ti capisco, da fastidio diciamo che sono comportamenti che si possono evitare, però poi viene fuori magari parole non volute, viene fuori tante cose, poi in sostanza fa niente, tutto lì, capito, tutto lì. E diciamo che nella 27 c'è sempre stato, ci sarà sempre chi vuole fare un po' di scena, chi vuole fare il furbetto, chi per una cosa o chi per l'altro, quindi per evitare, diciamo, è meglio evitare, dottore. Va bene, Antonio. Io ci sono, io sono d'accordo con Claudio, sono d'accordo con lui, capito? E ci vuole anche un po' di faccia di culo, scusate i termini, entrare in una frequenza quando è occupata da persone che di quel tipo lì non interessa un tubo. Comunque detto questo non mi interessa più nulla. Avanti Gianni Capitolo. Non chiuso perché stavo parlando con Domenico, poi lo chiamato, mi è sparito, io ho lasciato i quei che ho fatto continuare a modulare, mi è dispiaciuto che poi a Domenico non l'ho più agganciato, che avevo stato in bordo, non lo so, niente, mi scuserà Domenico, non lo so, però di quello che stavamo parlando già un bel po' di tempo, non c'è stato nessun break, c'è stata la conversazione così, senza avere break up, ho mollato tutto per non stare, non voglio intervenire perché non sono il tipo che usa parole vocali, però niente, me ne sono andato in cucina, ho mollato tutto, riprendi di nuovo qua e rilancia a Gianluca, avanti Gianluca, sì. E Anto, grazie, vabbè da, torniamo a fare i soliti, cosa vuoi va? Ma cos'è il suo rumore che intendi no? Ecco. Rumore ma fa di chissà, va, ecco. E cosa vuoi fare? No, canale dove si giamba. Canale. Insomma. Volevo fare aiuto con Luca per la telepate o cosa? E poi c'è arrivato Finlanda, mi facevo calcolare la niente. E Finlanda, arrivando bene che non mi ero considerato. Io Finlanda. Avanti, sa. Ok. Io mi ricordo tempi addietro, forse Claudio già se lo ricorda, tra 15-20 anni fa, allora la 27 era il boom della 27, una cosa tutta non c'era, chi si sovramodulava, chi usciva, metteva stufe sotto, portanti, Claudio te lo ricordo. Io già mi ricordo, Sciano, ma erano altri tempi, capito? Si faceva per farsi di far nascere il leader, ma erano altre cose che si potevano fare. Questo è un altro discorso, Sciano, non so se l'hai afferrato. E lo chiudo perché no, non mi interessa, però ti ripeto, fortunatamente non c'ero, perché io non rispondo, non parlo male a nessuno, parlo sopra e basta, è tutto lì, giusto per far capire qual è il modo di poter usare la radio. Se qualcuno pensa di usarla diversamente, allora ha sbagliato forse canale. Sono le persone che non parli, che non hai nessun dialogo e tu ti permetti di entrare e disturbare, tra l'altro, questione. Forse involontariamente, forse dico involontariamente, non c'ero, quindi non posso aggiungere niente. Però, visto che non c'è dialogo, stai in ascolto e basta, non intervenire. Questo è il mio punto di vista, come giustamente faccio io, o come sto facendo io, per carità. Quindi no, non c'è problema da parte mia, io non c'ero, però quando ho sollevato il volume ho sentito un po' di trick e track, capito? Però non succederà più perché io non rispondo ai comandi, parlo sopra e basta, capito? Parlo sopra e basta. Ok, avanti. Positivo al 100%, ma è così, bisogna avere anche un po' di educazione. Comunque, detto questo, cambiamo discorso e va bene lo stesso così, dai. Andrà bene, se capiterà la prossima volta vedrai che ci parlo sopra e mi farò ascoltare veramente questa volta. Va bene, chiappa di roccia, lo riprendi Gianni Capello. Io lo sempre detto. Combinato dalla sede e volo tutto, capito, non ho fuori, ma con parolci, spiego, me l'ho dato a porto fatto, se ne fa, capito, non ho manco risposto, però se non volevo rivolgere più la parola, quando uno taglio con uno ho tagliato per sempre, non vuole più essere manco salutato, ma ho detto tutto, detto, perché non voglio elencare, sono cose che, capito, che mi sono successe e che io taglio. Taglio subito e non ci sarà mai una prossima volta. Riprendi Sandro. E Sandro non c'era, comunque così. Allora mi è dispiaciuto che c'era un QSO tra me e te e Domenico, che aspettina, un tagliato, guarda, in 2 secondi è successo un patatrac, e quello che mi ha rotto un po' le scatole a me. Tutto qua, certo, tutto qua. Prossima volta vedrai che non succede. Ciò che non mi interessa, capito, un po' più di Sandro, tanto io, se mi chiamano, io non rispondo, capito, io gli ho dato un taglio, non ci sarà mai, ripeto, una prossima volta, perché quando chiudo la porta una volta non la riapro più. Riprendi Claudio. Sì, riprendi, no, beh, chiudiamo qua, non ne facciamo una questione personale. Ci possono avere tanti problemi, sia in radio di persona, io non so che cosa hai avuto, non mi interessa, ho già, però io parlo di quello che è qua, e basta, di quello che è qua, e lo dico una volta per sempre, e non lo ripeto più, eviti di entrare, perché se torna a succedere una cosa, è successo quello fa, io parlo sopra, e poi non dicano che sono maleducato, senza fare nessuna obiezione, senza fare niente. Va bene, d'accordo, c'era Mauro, non so se ha terminato di cenare, vediamo un po' di chiamarlo. Mauro ancora sta cenando, ok. Gianlu, riprendi, ho risposto anche lì, MD100 si chiama il microfono. E appena giù davanti? Sono davanti. Allora, quello lì che ci dicevo io era la versione molto precedente, era più squadrato, era, ripeto, col manico, diciamo, l'impugnatura del microfono, quella dove c'è il piedistallino, diciamo, che tu puoi anche staccarlo e usarlo a mano, perché c'aveva un cassino proprio nel microfono che facevi anche la portante, no? Oltre che avere il cazzo nella basetta lì. E rimaneva cromato, era bello quello lì. Quello è l'MD1B8, ce l'hai anch'io qua nella fotografia, quando usavo il 757 l'ho usato anche io, ce l'ho qua, l'MD1B8, sempre della Iaesu, però adesso l'MD100, l'MD200, che sono i nuovi modelli dell'MD1B8, dell'MD1C8, praticamente sono quei modelli nuovi e hanno lo stesso funzionamento, perché hanno il PTT anche sul, a parte del piantone, ce l'hanno anche sopra come l'MC60, la funzione è sempre quella, cioè non cambia niente, è che gli hanno montato una capsula non quella, come si dice, in porcellana, ma gli hanno montato una capsula ceramica e quindi la modulazione rimane leggermente più grossa, le mancano quelle tonalità medio-alte, tutto lì, è tutto medio-basso, infatti l'ho provato, quello che mi ha portato Sandro sulla sua radio, e le tonalità non piacciono, per come sono abituati a sentire a me, così in acuto, capito, tonalità molto alta, ecco, l'unico problema che c'ha quel microfono è quello lì, non ha i medio-alti, c'ha molto medio-bassi, perché hanno cambiato la capsula, una nuova versione, tutto lì, però è un ottimo microfono, caspita, bellissimo come figura, molto bello, è come l'MC60 solo che in nero, e ha un costo molto alto perché ha una funzione, hai visto, non c'ha più il down e up sulla piastra del PTT, ma ce l'ha sul piantone, questo rullo che si sposta a destra e a sinistra, è un po' più dinamico rispetto alla vecchia versione, capito? Com'era MD-B8? Sì, MD-1B8 della Iaesu, MD-1B8 che è la versione dell'MD-100, in nuova versione, mentre l'MD-1G8, la nuova versione è l'MD-200. Figurati, non me lo dico, ma così internet, se mi decido. Devi andare su Google e vedere un pochino se riesci a recuperarlo, ci scrivi microfono Iaesu MD1B8 e vedi se te lo va così, se riesce con motore di ricerca a trovartelo, prova un pochino Gianlu. Avanti Sandro, riprendi. Gianlu, vai sul sito della Iaesu, vai su Google, digita Iaesu e ti viene fuori la pagina della Iaesu, lì lo trovi. Farò così. Allora, io stavo cercando su eBay, la verità, eh? No, su eBay non lo trovi. Vai sulla schermata madre e lì trovi tutto. Va bene. Ok, sì, che ce l'ha rimasto, boh. Apri due, ci sei ancora. Eccomi, sono qui, io sto ascoltando le sigle. Sto provando a immaginarlo il microfono, ma non ce l'ho presente. Cioè, più o meno sì, però proprio il modello, già più il cartato qui. Adesso non ho voglia di andare alla vetrina a prendere cartato, però mi sembra che sia curioso a vedere come è fatto, ma senz'altro, come sta dicendo Claudio, no? Deve essere un microfono che si adatta bene al tuo apparato, già lui. Riprendi qua. Guarda, se tu lo vuoi, allora l'MD100 della Iaesu è una versione dell'SM20, no, che tu ben conosci Gianni, leggermente più grande, però diciamo che anziché avere l'attacco diretto, l'SM20, no, l'SM20 c'ha l'attacco diretto, giù col piantone, la vite eccetera, l'MD100 ha il portamicrofono come quello che canta, proprio come il piantone di quelli che appoggiano il microfono, la cosiddetta niente la chiama. Bisogna fare così e va dentro e basta, però diciamo che in linea di massima tu pensa a un SM20 Gianni che abbia il porta microfono, capito, che sul piantone anziché essere fisso abbia il porta microfono. Le dimensioni sono esatto. Anche l'MD100 è così, Gianluca. Anche l'MD100 è così, è uguale. B8 e C8. Le nuove versioni sono MD100 e MD200. Però il procedimento, esatto, il procedimento è sempre uguale. Non cambia assolutamente niente. Facciamo un po' di confusione, allora. L'MD200... Ecco, tu dici, molla sul portante, molla la portante dell'altro, giallo, bravo, se no faccio rientro, tu digita Iaeso MD100, microfono MD100, ed è quello di Sandro, che è quello che va sul 757. L'M200 invece è totalmente diverso, c'è un abisso, addirittura c'hai due tastini dove fai i cambi canali, cioè giustri tutto dal mic. Quanto è bello, pare che tu vai a cantare, ti devo pensare l'incisione. L'MD200 è a piantone verticale o Sandro? Tipo giluro, tipo supposta, adesso ho capito perché sei così, Sandro. Ti hai comprato il microfono supposta. Allora, ascolta una cosa. Allora, visto che c'è sempre questa, voglio precisare che ho una certa età. Certi viti ormai li ho persi. Madonna, lo sai che mi ero dimenticato? Mi ero dimenticato che quando eravamo giovani nascevamo assieme. Ormai col passare degli anni certi visti li perdi. esatto. Vabbè, comunque l'hai visto Gianluca, tra vai da computer Gianluca, riprendi Matranto, non ti arrabbia Matranto? No, assolutamente non sono arrabbiato per niente. Tutto passato, è così. No, stavo ascoltando, un discorso interessante. Piace anche sentire i discorsi, Billy, ma ho sempre piacere ascoltarli, Claudio. Ecco, c'è stato un bel discorso di 10, vabbè, cerchiamo di fare il nostro meglio, per capirci quando io, per esperienza, posso neanche andare a vedere il computer, perché ce li ho qua davanti i microfoni qui. Ma poi li ho avuti, il 200 no, il 200 è quello che ha preso Sandro, no, ma il MD100, l'MD1B8, l'MD1C8, quelli li ho avuti che sono simili all'MC60. Poi c'ho anche le foto qua, ho fatto una bacheca grande, enorme, con tutte le foto delle radio che avevo, che ho avuto, che ho usato, che ho dato, eccetera, eccetera. Quindi va bene, si possono vedere tranquillamente. Ok, Gianni Capri 2, avanti, riprendi cambio. Ciao Claudio, ciao Pacchetto, ciao Michigan, W2, ciao Sandro, io sì, non sono. Come sei così basso di oggi, dove sei? Casa sono, non è caduta l'antenna. Se l'è caduta l'antenna, come l'avevi piazzata a Strumpio? Sicura che ha fatto quel vento forte e si è rovesciata. Quindi l'ha piazzata a Strumpio, non con l'estate, a Strumpio l'hai messa. Strumpio, ma un bel basso è Claudio. E Giuseppe, io penso che forse non ti sente manco Antonio, non lo so. E qua di 9 con l'antenna quella grande, 9, 9, 5, là c'è Santiago 3. Vediamo un po' se ti ha ascoltato Antonio Falchetto, tanto lo senti a Peppino. No, lo sento basso, cosa ha fatto questo? Aspetta, manco l'Antonio arrivi Giuseppe. Io perché si davanti a me, ma lui è molto più dietro. Se Santiago 3, l'antenna ne è caduta. Lo vento che ha fatto, si è portato la canna alla pesca e mi ha regato un pesce 30 lo cacciato. Vero Giuseppe? Ha detto, tu sei sempre un po' di buono. La canna alla pesca, gatto, fatta da Dio Pomponi, ok? Quando mai non ha guigliato la ringhiera, ma che cosa, no? È battuta la canna a pesca, è navigato un botto di pesce, navigato. E abbiamo perso il galleggiante, senza segnali siamo, tanto senza segnali. Ciao Giuseppe, ascoltate, ti sei abbassato di parecchio, ma dai che ti sei abboccato anche pesce marino, Giuseppe. Deve essere qualche mese, un dentice di dici. Sono partito da canna a pesca e ha regalato un po' il sole a asciugamani, questa roba qui ce l'ha pigiata, che te la chiami Giuseppe, e vabbè, dai, lascia calmare questo tempo, poi si rimette a posto l'antenna, non c'è problema Giuseppe. Ok, allora Gianni Capri 2, hai trovato qualcosa nei tuoi manuali di quelli antichi, di questi microfoni? Dici. Attenzione, se mi ascoltate su 10 cambio. Attenzione. Pauraggio. Ti vedo dici su pauraggio. Sto cercando questo, come si chiama, che tutta la linea della IAESU, lui è attaccato, infatti si assomiglia all'SM20, anche se diciamo la proprio, ora ti posso dire, non prenda la spugna, come si mette la spugnetta, bella grossa, diciamo, dove c'è la cassa, diciamo, però è quello il microfono, è molto somigliante, però come stai dicendo tu, il microfono in questo e questo non ce l'ho più raffigurato bene, entra come quello che va nei contatti di cui lo appendo, non nell'altra. Esatto, io ce li ho tutti così i microfoni, anche questo lo sto parlando adesso, la stessa cosa, io ce li ho tutti così, tranne quello di Sandro, il 908 della 12, chiamiamolo così, che è flessibile e basta, il resto miei sono tutti così i microfoni, capito? Quindi quello che stava dicendo Gianluca poco fa è praticamente l'MD1B8 e il C8 che sono uguali, solo che uno ha la preamplificazione, l'altro invece no, lavora solo col processore della radio, e sono la versione vecchia dell'MD100 oggi in produzione e dell'MD200 che sono tutte e due di Sandro c'ha sia il 100 che il 200 e sono due microfoni di una bellezza rara, perché sono tutti e due cromati neri, sono bellissimi e hanno soprattutto una capacità allucinante, molto molto molto dinamico, un microfono chiaramente che non è da usare in AM, però ha una grande modulazione sia in FM che in banda laterale, solo perché giustamente la IAESU ha fatto sempre radio. Sì, ha fatto bianco, basta, mi ha fatto bianco, non so se avete sentito Gianluca nell'altra radio che mi ha detto che sta facendo un attimo di bianco, solo che la IAESO rispetto alla Kenwood, assieme alla ICOM, sono due case che non hanno mai fatto radio come la Kenwood intermedie, nel senso che lavorino anche in AM, hanno fatto sempre delle radio che lavorano in banda laterale, hanno sempre curato molto la banda laterale, tranne il 757, il 747 da IAESO, che sono piccoline come il 140, che con qualche accorgimento si riesce a farla andare anche in AM, e basta. Il resto, tutte le radio di grossa stazza della IAESO e della ICOM in AM si fanno sentire, ma non a livello delle vecchie radio o Kenwood. Questo lo dico per esperienza. Attenzione, su 10 se mi copiate cambio. Ma cos'è che pensavo venire cacciuto dalla gadria tu? Che mi hai detto? Pensavo che mangiando ti sei andato a buccia alla manca. Ma non mi hanno avuto molto nulla. Io ne ho mangiato tutto, quello vuoi che l'hai mangiato. Ma cosa vuoi tu? Ascolta, questa come radio, come ti sembra Claudio? Non mi piace, non sai, io sono sincero, non so che accorgimenti hai fatto con Antonello, però a me mi piaceva il microfono tuo, l'MB più 4, con l'MS200 normale come ce l'avevi dalla casa, dai. Cosa gli hai cambiato? La capsula? Figlia, guarda adesso se va meglio. No, è troppo chiusa, non c'è tonalità medio-alte, tutto bassi, sì. E vabbè, ma io sto usando l'ala 48, non sto usando quello là. E allora mi sembra una decimetra l'altro giorno. Allora diciamo che stai andando bene. Ma la radio che piace a me è quella con l'MS200 e con l'MB più 4. Quella va bene. Tanto lo senti a Mauro. E adesso l'ho abbassata, guarda adesso. No, non mi piace la mouse, non mi piace. Vabbè, dopo lo proviamo con l'altra, non con questo. Questo è una cosa, questa radio, si proverà con l'altra radio però. Capacciata, proviamo l'altra radio, poi vedi un po'. Se non lascia tanto bello, adesso me la sistema domani, lo switch, si controlla e vediamo, va. Questo vuol dire si prova. Capparoce, scappa di roccia. Ehi, va bene. Ah, ecco, gli ha lasciato la radio, quindi avete fatto un cambio momentaneo, va bene. Avanti, Sandro, riprendi, se ci sei, cambio. Aspettate un attimo. Che casino ha fatto? Ricorda Giano, ma si va vedendo con noi o si leggendo il giornale? A me? Un attimo. No, a Sandro. No, è stata la mia disattenzione, la mia distrattezza, tutto quanto. Ok, va bene. Però Clas, può fare un passaggio in FM? Passaggio in FM mi devi far commutare perché qua io sono sulle memorie. Sì, possiamo farlo con la scusa di tutti. Un passaggino veloce, fammi commutare, dai. Ascolta, io niente. Di Curico ci sentiamo domani, dai. Claudietto, ci sentiamo dopo le 11 quando esco, dai. Vabbè, intanto la radio la puoi tenere accesa perché io me la mettevo nella barra di lavoro, dai. Va bene Mauro, d'accordo, faccio un passaggio in FM qua, eh. Ascoltate a Sandro se esce bene. Thank you. eccoci qua, tutti in ampiezza modulata. Fai benissimo, Sandro, ma no, non c'erano dubbi, non c'erano dubbi. Io conosco perfettamente quella radio, conosco perfettamente quel microfono, anche se io sinceramente non l'ho mai avuto, ma so che lavora alla grande, lavora alla grande. Va bene, va bene, qualche sera te lo porto su e così provi, lo provi su quello là, magari si avvisce pure su quello là, Bisogna fare le prove, Sandri, bisogna fare le prove, sai, noi siamo megalomaniaci, un microfono della pippa, anche se è un bel ragione, che sono 908, però è l'unico microfono che spinge molto bene col 757. Mentre a differenza dell'altro, che sono barca dei soldi, non spinge una pippa, tutto lì. Purtroppo per esperienza posso dire che di prove ne ho fatte tante con i microfoni, quindi posso garantire che c'è tanto da scoprire, perché basta un microfono da niente per dare quella modulazione, quella chiarezza che magari non danno microfoni professionali. Purtroppo è così, però va bene, tu immaginati Gianni che ho attaccato il ma così per provare, ma voglio fare una prova, io ho anche il Savelka, il Plus, l'ultimo nato che ho comprato da Gigino Vulcano, l'ho attaccato al Zodiac, quello base, al 5024B. Sono rimasto, avevo le cuffie, ma che ce le esce, schiaccio questa modulazione allucinante, ma allucinante, talmente forte che ho dovuto mettere il potenziometro, il driver proprio del mic gain del microfono quasi a zero e tenere il mic gain della radio tutto al massimo. Ma aveva questa, non aveva, perché ce l'ho, ha questa modulazione allucinante. Poi l'ho provato con le stesse connessioni attaccare al baracchino che è della scatola praticamente del Galaxy, no? Questo Savelka Plus, al Galaxy Pluto che praticamente è il Saturn Echo in miniatura. Altra modulazione, la paura, poi stamattina mi stavo facendo tutte queste prove perché volevo capire dove poter mettere questi microfoni che ho, senza proprio accorgermi che avevo sotto mano una mina, veramente, un grande microfono in Savelka, veramente, un grande microfono, poi si adegua moltissimo, soprattutto ai Galaxy, al Tornado, al Superstar, ma anche a quelli a relè tipo il Zodiac, tipo la Fayette HB23, a tutte quelle radio lì vecchie, là. Quindi se si dovesse capitare a te che tu sia amante di microfoni, anche se il Savelka non è di ultima, di vecchia generazione, ma prendilo, io ce l'ho, guarda, me l'ha fatto avere Luigi, e va veramente bene, va veramente bene, a te Gianni. Confermi Claudio che è quello? Sì, sì, sì, sì, sì. dice, ma ce l'ho io, guarda. Io se tu vai a vedere, io ho tutte le foto qua, quando capiterà che finalmente ci conosceremo così, qualcuno dice finalmente, ah ecco, si sono conosciuti. Ti faccio vedere tutte le foto, perché io sono anche amante un po' del, perché sai, con avere tempo poi ti dicono, ah vai, non hai avuto quella. Invece c'è sempre la stessa stanza che ha conosciuto la mia vecchia scrivania. Ti faccio vedere tutte le radio che io ho avuto, tutte fotografate e messe in bacchetta, fotografate e messe in bacchetta, con tutti gli anni, tutte le cose sue, no? E proprio l'MD1B8, ce l'ho qua davanti in fotografia, è attaccato alla linea del 102, la linea del 102 IAESO, che erano tre pezzi, è la radio che è grandissima, è enorme, è più grande del 940 della Kingwood, poi c'è il VFO, eh? Esatto, transistor, sì, era un transistorizzato a sintonia continua decametrica, però, quindi a sbalzi, col finale, come ha detto Gianluca, a valvole. Ok, una radio eccezionale, una radio spaventosa da vedere, autoalimentata 220, esatto Gianluca, tre pezzi, quindi ricevitore e trasmettitore, VFO separato, con doppio display, quando vieni qua te faccio vedere fotografia Gianluca, l'ho trovato con me, una bella. Ricerca che non ho più ritrovato. Monellaccio, dove vi entrare? persona che poi praticamente, come capita sempre, se le prendono le cose, non è che ti consulta, dico cavolo, lo vuoi di nuovo con Mico, guarda, è qua in foto anche quello, va. Quando vieni qua ricordi, ho messo delle foto davanti proprio alle radio, bellissime, e c'è anche quel microfono. Poi ti dicono loro di voi, pronti, tieni soldi, dammi il microfono, no, ce l'ha venduto, se sarei minuta. Grande microfono anche quello, grande microfono anche quello. Claudio. Lo so, Claudio. Vabbè. Lo so perché l'ho avuto e cazzo era da paura. Guarda, da paura, a parte che si addiceva, diciamo, al tono, al timbro di voce, era un qualcosa di particolare, guarda, allucinante. E vabbè, purtroppo. Antonio, ma ci sei ancora? Ok, ma era 902 o 102? No, 902 è la versione dopo, il 102. Il 102. No, no, questo che c'avevo io era l'FT 102, tre pezzi separati. Allora, Ocla, è tipo quello che abbiamo visto sul computer? Sì, diciamo di sì, perché quello praticamente poi era la Sommercamp che lo faceva. Io avevo anche il 101 digit che ho regalato proprio l'anno scorso. Ho regalato il 101 digit della Sommercamp ad un amico che adesso non sta più neanche entrando in radio, e c'era lui perché mi aveva dato una mano per fare determinati lavori nella casa, volevo pagarlo ma lui è avanti di radio. Ho detto va bene, soldi non ne vuoi, perfetto, la scegliti la radio che vuoi. E gli ho dato il 101 digit e il 707 sì, della IAESO, però era la versione Sommercamp. Esatto. Quello lì, e se li ha portati via, ce li ha anche lui in vetrina, non le usa, ogni tanto le accende, e io sono fatto così. Quindi di radio ne ho dato tante, ma tante, credetemi che non viene bene a dirlo, però quelle che poi mi sono rimaste hanno continuato a rimanere qua. Ok, facciamo girare, mi ha chiamato Giuseppe, un secondo solo, Giuseppe dimmi. Beh, adesso come mi senti? La matta di mio vai, ragazzi, ma la canale pesca è addrizzata. No, ho fatto una modifica, vedi come ti sto arrivando adesso. Ma tu sei passato da Santiago 3 a Santiago 9. Vedi, gli ho girato un po' il positivo. Monello. Oh, Falche, ci sei? Pacchetto? Cosa, Sandro? Non ho capito. Fammi un passaggio. Prima aspetti qualche secondo senza modulare e poi fai la modulazione. Ok, un attimo che scendo io in cucina, salgo subito, sono in guarigione. Sì, ok, già. Ecco qua, e poi modulo. Così hai detto, ma siete nel magazzino. Ti ho messo tramite il computer, niente di particolare. Bene. Tu lo sai che quella radio tua c'ha il voice, hai letto il manuale? Praticamente cosa fa? Se tu non vuoi parlare, ti registri la tua voce in quella radio, poi vai nel menu, te la imposti come trasmissione, canale 10, tu non fai altro che parlare, lì va in trasmissione e dice attenzione canale 10, c'è nessuno. Io il 920, che è il modello precedente del tuo, quando già provato tutto quanto. No, ma adesso ho messo il carretto, come sai, lì al computer tutto quanto, e quindi vado tramite il computer, capito? È positivo. Vabbè, Gianlu, l'hai trovato il 102, hai visto che bello? Io ce l'ho qua davanti, me ne farei la Bavaria. Mi sa che mi rimetto alla ricerca di nuovo, che mi rimetto alla ricerca di quella radio. No, già aspetta che no, ho visto il 902DM, era molto simile, dovrebbe essere. Sì, ma il 902DM era già superiore, era con lo stadio finale a transistor. Il 102 invece era con lo stadio finale a valvole, c'aveva il preaccordo, la valvola di preaccordo. Esatto, Gianlu, esatto, si trasmisce una valvola. Vediamo se qualche tecnico la Siri, tanto ha sempre riuscito un video, Mauro, Giuseppe, dimmi. Allora, cosa hai combinato, non ce lo dici, cosa hai fatto uscire il topo dalla trave? Sono Giuseppe l'inventore, cazzo, gli ho messo una tappa di alluminio e l'ho lasciata così. Da Santiago 3 si è salito a Santiago 9. Va bene, non c'è problema. Qua, se quello là non mi viene a mettere la quarantena, cazzo, è inutile, non posso stare tutto il giorno così, capito, cazzo? Sì, vabbè Giuseppe, siamo qua, siamo tutti in città, c'è tra qualcuno di fuori, pazienza, se non lo senti, Giuseppe vi va. Siamo qua in città, Giuseppe, una volta che arrivi qua da me, già arrivi anche dagli altri, che Sandro è giù a Porto Torres, Gianluca è a Porto Torres, Antonio adesso già ti sente, solo lui si è dormito, Gianni Capri 2 non ti sente, vabbè, ma lui è distante. È distante, però lascia se già ti sentiamo, non ci sono problemi. Attenzione, Antonio Falchetto, dove sei andato? A bere? O ti sei dormito? Dormito, Giuseppe. Italia pareggiata. Allegria, grazie, Italia pareggiata, per carità. Eccomi qui. Eccoti Gianni, riprendi, Antonio Falchetto è caduto dalla sedia, si è addormentato. Sì, il figlio da poco mi ero addormentato anche io, a tavola, non è più una cosa, anche nella radio qualche volta che sono proprio ostacolo, niente, lo capisco Antonio e lui lavora più di me, niente, comunque ho visto una carrellata di radio, è sempre per gli avvisi questi cataloghi. Hai capito, li ho beccati, c'è anche il 440, sono belli questi, non c'è butto mai nulla, quindi ho visto il microfono, è un mostro come microfono, e poi ho visto anche c'è tutta la linea del DS940, l'altro è l'FT757G, guarda, radio favoloso, SM20, hai visto su magari la radio che hai preso tu ha una flessibilità su un quadribanda sempre della ICOM, tipo 706, tipo non so il 271 che ho, tipo insomma ne ho altri, il DC25, il 2775, tutti della ICOM e così via, hanno delle prestazioni diverse perché le radio sono digitali e quindi lavora in una certa maniera. Su un analogico l'SM20 ha una diversità di modulazione, una spinta inferiore a quello che può essere il digitale, capito? E così via, così il medium biotto si abbinava al 757 con più flessibilità, nel senso che era molto più forte la modulazione, mentre invece l'MD100 si abbina ma ha una modulazione diversa, tonalità medio-basse rispetto all'MD1B8 e così via. Tanti microfoni sono diversi, dipende sempre dalla radio che usi. Infatti, no, ciascuno che vuole il suo microfono, però ho visto che la radio qui è dotata di macchinine di compressore, magari si adatta anche con un buon microfono, diciamo che se non è amplificato con il macchinine suo, però diciamo per, come stai dicendo tu, per la M non è molto indicata, lavorerà meglio diciamo no, sulle in banda e sulle frequenze di radioamatore, però no, il resto diciamo sono contento, e la mia completo di poco l'ho vista da un tempo e ci sono arrivato a quella, è più che sufficiente. Poi ho visto i Kingwood, ho visto per Ocla a fidarmi la casa di radio, non niente, questo era giusto un capriccio diciamo, e chi ci è rimasto ancora? Ma non vorremmo esserci tutti, anche se sono già le 10:20 e tra un po' perlomeno io chiudo, non so se. Allora rilanciamo un attimino, quindi c'è Giuseppe, Antonio non risponde ai comandi, evidentemente si è addormentato nella sedia, Mauro sicuramente è andato già a nanna, non lo so, comunque io le faccio il giro. Mauro? Attivo. Giuseppe? Sono sempre qua io. Ok, Giuseppe c'è. Sandro? Sì, ok, dai, sono qua, però anche io sono quasi per chiudere. Sì, allora, quando chiudi dacci un colpo, così non ti rimettiamo al microfono. Gianluca? Sono qua io. Però se prendi la barata, la fai di poco, ce l'abbiamo fatto alle 10. Quindi sono quasi le 10:30 già. È ancora presto. A parte un poco di Roma Coli, ma come non ne prendeva? Anche bello, non è bello, però può darsi che domani piova stanotte pure. Non lo so, dimmi una cosa, poi rilascio Gianni. Ma il bar che c'è sotto, quello lì è il tuo, no? No, un amico mio l'ha preso in gestione, sì, l'ha preso un amico mio qua sotto, a novembre scorso, già un anno. Ah, sì, ma dico il locale è vostro però. No, negativo, è quello che ce l'aveva prima. Ah, ho capito. Va bene. Allora, quindi tu hai risposto, sono lo stesso, Giuseppe lo stesso. Avanti Gianni, allora vai. Quando vogliamo chiudere basta che lo dite, e chiudiamo baracca e baracchini e ce ne andiamo tutti a nanna. Ok, sì. Io già sono vicino, diciamo al 144, cioè sono vicinissimo, perché altro posto non ho a mettere la stazione, però è abbastanza grande la ricamera, almeno quella, e c'è diciamo il posticino ricavato per il tavolo, hai capito, queste cose più che bene, ovvio. Non lo so se avete voglia di chiudere, hai capito, però io se volete continuare l'altro po' di passaggi per me fa piacere, altrimenti io anche quando sono vedo sto sempre, sempre leggendo. Io mi stavo leggendo un libro di tecnica di scuola e capito di tanto. Sfoglio anche qualche testo scolastico qua. Tutto lì, provo a rilanciare a Gianluca, non so se ha risposto, a Giuseppe non ascolto. Giuseppe, se mi ascolti mettiti l'antenna a posto. Gianluca, riprendi il capello e ti rimette l'antenna, vai. Sì, che c'è Claudio? Sentivo anche prima un po' che c'era. Adesso mi sta arrivando più forte di segnale, di radio, il segnale però sempre lo stesso. Va bene. Ok, io non ho toccato nulla e si vede che ho sollevato la voce, ho sollevato niente, regolato, mi ha detto Claudio, questo microfono non regolato come ha detto, sotto c'è il cursore, quello non l'ho toccato, io mi dovevo del making così, e da lì non ho toccato più nulla, poi se sta arrivando, diciamo, forte la voce, non lo so, non è come l'ho messo. Quando ha linguato e non ho toccato nulla. Riprendi di nuovo Claudio. Sì, mi ha chiamato Giuseppe, forse voi non lo sentite. Dimmi Giuseppe. Ma io una cosa, perché Gianni capi due? Tanto mi arriva Santiago 7 qua e almeno riesce a capirmi, a sentirmi. Me lo spieghi? Perché la ricezione di quell'antenna è buona. Ad andare in trasmissione verso di lui con Giuseppe. Lui nei tuoi confronti è leggermente più alto, più forte, e quindi tu lo senti, ma tu nei suoi confronti non ce la fai ad arrivare, è tutto il problema. Aspetta un attimo, Gianni, KP2, mi copi? Pio Pio Giuseppe, ma come hai combinato? Adesso sì, adesso ti ho copiato, forse perché anche sta passando il QRM, adesso ti ho copiato Giuseppe. Quindi mi ascolti bene tu lì. Come arrivi in Santiago 7, lo hanno radio alle 5 lì. Mi ho chiesto Pio Pio Giuseppe, come si chiama il QRM che si sta passando, però molte volte che il QRM sale ti supera e quindi non riesco a copiarti. Comunque, niente, hai capito, mi devi andare a posto, vedrai che arrivi bene, io sono un avanzo a 5 e anche quello da tirare sopra, altrimenti magari se tiro l'antenna, infatti sono pronti, la alzo anche, io la devo alzare per migliorare la ricezione, non per trasmissione, capito? Se la alzo migliora anche la ricezione, perché diciamo non è molto in alto, non sta lavorando come dovrebbe essere, però ho avuto altre cose da fare, quindi non è stato possibile. Ok, Sandro, ancora ci sei? Ehi, capa, già sono qua, dai. Già sono ancora qua che vi seguo io. Intanto nel frattempo sto sgruzzando qua, perché penso poc'anzi siamo entrati nel discorso dei microfoni e sto provando a vedere se su internet si riesce a beccare lo Shure, però niente da fare. Al momento Shure soltanto microfoni da musica e quella roba lì. Però quello lì da base, quello lì là, niente da fare. Vabbè, evidentemente è uscito fuori di moda. Ok, riprendi qua. Sì, magari se digiti Shurer, non Shurer, Shurer, SK, riesci a trovarlo, cioè deve andare sui vecchi siti, capito, magari vedere qualche radio rivista di qualche anno fa e andare sui vecchi siti e vedere un pochino se si riesce a trovare, perché quelli di vecchia generazione che ho io, tipo il Tano più 3, l'SBE, come si chiama? Vabbè, sapete, non è di vecchia generazione. c'era, trova c'era, trova tutto no, e a dire una balla, comunque c'era un trova, nominamento, punto IT finale, però non mi ricordo come era segnato esattamente il sito. E ci sono tutte le vecchie cose. C'è un altro giorno ci picchia, porca la miseria. Non me lo ricordo, sa. Infatti c'era il Zodiac, quello che c'ho io, il Sears, quello che c'ho io, quella radioamericana bellissima, enorme, molto bella, la Fayette KB23, i similari della KB23, il Tokai, il Pace, c'erano tutti i microfoni di vecchia generazione, proprio tipo lo Shure, il Tannen più 3, il Tannen più 2, poi ce n'era uno simile al Tannen più 3, sempre a tavolo, che ho avuto, adesso non c'ho più, ce l'avevo in collezione, il che è sempre Salenta, però è vecchio modello, non Salenta Plus. Vabbè, comunque ci sono, c'è un sito, se tu metti su Google lo trovi, sai. Sì, adesso ho provato a digitare trova di tutto. Trova di tutto, sito Jumbo, trova di tutto. Va a beccare disco IT, opinione, si trova di tutto. Vediamo un po' questo. Andiamo per questo, a vedere cosa esce di fuori e magari a beccare il sito giusto, va visto, perché il sito giusto, allora cellulari, elettrodomestici, elettronica, vediamo un po', e a trovare il sito giusto, hai capito? Sì, vabbè, comunque c'è perché l'ho trovato io. No, devi andare sui vecchi siti, ti ripeto, non mi ricordo esattamente che nome aveva, però io l'avevo trovato. Va bene, allora io già inizio a approfittarne con il microfono in mano, per potervi salutare tutti cordialmente, ringraziare naturalmente la compagnia, un saluto a tutti. A te Gianni un saluto, a te e alla tua famiglia, grazie della compagnia, di tutto, per Gianlu, ottimo per la truppa, fatti sentire anche qua, perché ci andiamo anche l'altra, un po' tutti, e quindi alterniamo un po' qui un po' là. Ciao Sandro, saluto anche a te per casa, ciao Giuseppe. Ciao Antonio Forchetto, è caduto alla sedia. Ciao a Mauro, se fossi in ascolto, un saluto circolare a tutti, anche per chi ascolta, perché giustamente bisogna salutare a tutti, e quindi un saluto circolare anche per gli SWL. Ci sentiamo domani, grazie a tutti della disponibilità e della compagnia che ci avete dato anche stasera. Un abbraccio a tutti e a domani. Claudio Sparghiero, QRT. Il microfono per Gianni KB2. Ok, grazie Claudio. Allora, QRT, saluti al cuore della familiare, anche io. Mi ha approfitto per salutare, sperando di sentirci domani, e capito, salvo altre cose importanti. Speriamo di no, comunque ci sia il tempo anche di farci un'altra chiacchierata. Quindi saluto Sandro, saluto Giuseppe, saluto Gianluca e tutti anche quelli d'accordo. Altri due, anche lui, chiude le trasmissioni per non riprendere. E ne metto il tutto a Gianluca. Avanti Gianluca, capito che rimetti il cambio, vai. Sì, copiato bene. Sì, ci sentiamo, ciao Claudio, ciao Giuseppe, buonanotte. Io rimango ancora qui un continuo al computer, vedere un poco se trovo qualche cosa di antico. Ci sentiamo tutte le prossime per domani. Allora dai, di nuovo. Buon QRT, buon riposo, buon tutto per domani. Avanti Sandro. Ok. Ok dai, salutoni a tutti, una buona notte, una buona giornata per domani, ci sentiamo, dai. Buonanotte a tutti. Ma pare prendo io, buonanotte a tutti, scusate se non sono intervenuto. Pacchetto, chiudo la trasmissione e tutta domani si coincide. K, buonanotte anche Claudio Sbaglieno, tutte le migliori, ciao mai a tutti. Cazzo, di la verità che c'è caduto la gatria e c'è drumito. Domenico Pacchetto. Miau. Antonio ci chiamano Domenico. Ciao Antonio, sono tornato indietro per salutarti. Scusa se ti abbiamo disturbato chiamando. Sì, buonanotte, ciao a tutti. Ciao, per niente, non mi preoccupare. Ciao, di nuovo, buonanotte a tutti, buonanotte anche Giuseppe. Ciao Domenico, buonanotte, buon buon. Ciao Domenico. Ciao, ciao, perché? Si è fermato, e beh, come me l'ha visto? E beh,